Abbiamo investito moltissimo su questa edizione, abbiamo cercato come borsa di fotografare tramite un'indagine con Eurisco e i principali broker italiani il comportamento del trader online, che poi nella sostanza si concretizza nella partecipazione alla Trading Online Expo, dove può trovare praticamente tutti i principali operatori dell'industry, quindi le banche, i broker online, gli emittenti, e tutti i partecipanti potranno ascoltare e imparare su tutti i prodotti e i mercati che rendiamo disponibili su Borsa Italiana attraverso i seminari organizzati in primis da Borsa Italiana ma da tutti gli espositori. Quindi è sicuramente un momento di formazione ed è l'elemento su cui da 10 anni abbiamo puntato come Borsa Italiana per la Tolexpo e crediamo che i risultati stiano pagando.